Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Gli amici mi raccontavano sempre della fantomatica corsa pazza. Due volte a settimana si ritrovano una sessantina di ciclisti per correre come pazzi fino ad un'anonima riga di bomboletta spray tirata di traverso sull'asfalto 40 km più avanti. Mi chiamo Paolo, abito a Rovigo e ho 34 anni. Sono sposato, sono tecnico delle telecomunicazioni e ho come passione il ciclismo. Le 16:07 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma e voi siete qui. Buongiorno a tutti, in diretta da Milano, come al solito, dalla splendida serra in cristallo del Sole 24 Ore. Oggi raccontiamo la storia di Paolo, che parla, come avete sentito, di una gara folle, cioè di una gara totalmente amatoriale, organizzata da gente che si incontra e dice: andiamo da qua a là, cosa c'è là? C'è un finale? No, c'è semplicemente, non c'è un traguardo, c'è una riga di bomboletta spray sull'asfalto. 349-238-6666, qualunque sia la gara amatoriale, folle, ma vale anche la corsa coi sacchi, che avete fatto o che fate abitualmente. 349-238-6666. E visto che parliamo di corse pazze, noi di solito non le facciamo, cioè di solito non facciamo marchette a voi siete qui. In questo caso però lui è un amico e ogni tanto lo sentiamo, e soprattutto lunedì parte la terza edizione di Picheno Express per la seconda volta condotta da Costantino della Garardesca. E quindi Costantino è qui con noi. Pronto Costa? Oh, pronto. Come stai? Perfetto. Io benone. Parte domenica comunque. Parte domenica. Sì, alle 9:05 su Rai 2. Domenica 7 settembre su Rai 2. Senti, è una corsa pazza quella, giusto? Nel senso che i partecipanti... È una corsa pazza come quella che guardavamo quando eravamo dei ragazzini. Non so se ti ricordi il cartone animato con Dick Dastardly e Penelope Pitstop. Ah, certo. Con le macchine. Sì. Ma c'era il modello che noi abbiamo in mente. Ma c'era anche un film, no? La folle corsa, una roba del genere, con gente che correva, con un attore americano con i baffi di cui non so il nome, ma lasciamo stare. Costantino, con Burt Reynolds forse. Bravissimo lui, sì. Burt Reynolds, esatto, sì. Era lui di cui non mi veniva mai il nome. Senti Costantino, raccontami da dove partirete e dove arriverete. Noi partiremo dalla Birmania, sì. I concorrenti quest'anno per l'appunto sono più pazzi che mai, e arriveremo in Indonesia. Quindi quanti paesi vi farete? Facciamo la Birmania, tutta la Birmania, anche tutta la campagna, che sarà molto difficile per i viaggiatori, la Malesia, tutta la Malesia, Singapore, sì. Poi da Singapore si va a Giava, si percorre tutta Giava che come ben sai è un'isola molto popolata e molto, diciamo, funky, un po' tipo una versione Rocky Horror dell'India. Ok. Dopodiché si va al traguardo finale, Bali. Senti Costantino, non diamo per scontato che tutti sappiano che cos'è Pechino Express, cioè è una gara in cui i concorrenti cosa devono fare e come lo devono fare? I concorrenti hanno un euro al giorno per sopravvivere, questo euro lo possono spendere solo in cibo, devono fare l'autostop e arrivare da un posto fino all'altro, è un programma belga, infatti noi lo giriamo con della gente belga. E questi concorrenti, ovviamente chi arriva prima vince, e gli ultimi arrivati vengono eliminati. Cioè voi avete discriminazione. Avete dei belgi che vi seguono e vi fanno delle annotazioni, vi dicono delle robe, questo sì, questo no? Noi abbiamo una cosa che si chiama la Line Production, che è proprio la produzione sul luogo, che è belga. Ah, è un gruppo di gente internazionale che fa televisione, diciamo, quella un po' più difficile, gente da produrre, capace, insomma. Gente molto capace. Poi ci siamo noi italiani, dei fanfaroni che arriviamo lì. Okay. E poi ovviamente, cosa fondamentale, ci sono anche i malesi, i birmani e tutto quanto. C'è la gente che vive lì, banalmente. No? Quelli che vive lì, che ci aiuta, c'è la produzione anche locale, oltre alla Line Production Bank. Quante persone sono coinvolte più o meno? In quanti sarete? Guarda, in tutto, incluse la gente del posto, per tutta un'edizione saranno 180 persone. Wow, comincia il 7 di settembre su Rai 2 e finisce quando, Costantino? Che è domenica, sì? E finirà verso dicembre, metà novembre. Ti devo salutare, prima però Costantino volevo chiederti, ho letto che hai detto della Cina, la Cina mi piace perché è un mix tra Stati Uniti, Blade Runner e Cologno Monzese, in che senso? nel senso che la Cina vera, quella di provincia, quindi non Pechino e Shanghai, è esattamente così, è un grandissimo colonio monzese con le persone vestite come del male, come degli americani del Midwest, okay. E inquinata, okay. Però l'amo molto. Costantino della Gherardesca di nuovo conduce Pechino Express da domenica 7 settembre su Rai 2. Grazie Costantino. Un abbraccio. Ciao, grazie, un abbraccio anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. 349-238-6666. Torniamo alle cose della radio, torniamo a voi siete qui a Radio 24 e alla vostra corsa pazza, che non è per forza a Pechino e non è per forza in bicicletta verso una linea tracciata sull'asfalto. 349-238-6666, la vostra corsa pazza. Questa è quella di Paolo. Presi in mano per la prima volta la bicicletta da corsa che ero già oltre i 30 e nei primi istanti non avevo ben capito dove mi avrebbe portato. I miei amici già andavano come dei siluri, per cui non potevo fare delle uscite insieme a loro. Avevo una bici e una fidanzata a cui non piace la bici. Iniziai quasi per scherzo. Mi piaceva partire e non sapere bene dove andare. Da subito mi resi conto che volevo sempre migliorare, ancora e ancora, sempre di più. Ad ogni giro trovavo un ostacolo che non riuscivo a sorpassare e tutte le volte mi ostinavo ad oltrepassarlo, che fosse una salita particolarmente dura o che fosse un altro ciclista da superare. Continuavo a girare quasi sempre da solo e ogni tanto qualche mio amico usciva con me così per stare un po' in compagnia, ma regolarmente li vedevo sfrecciare ad un ritmo per me insostenibile. Continuai a girare da solo, macinando chilometri e salite sempre più dure. Ho iniziato ad andare in bicicletta proprio perché la mia ragazza, mia moglie adesso, mi ha regalato una bicicletta a sorpresa. Io sono sempre stata una persona molto sportiva e avendo avuto questo regalo sono stato molto incuriosito nel provarla, nel vedere fino a dove poteva portarmi. Gli altri amici mi raccontavano sempre della corsa pazza. Due volte a settimana si ritrovano alle 18.30 una sessantina di ciclisti, per poi partire come pazzi fino ad un'anonima riga di bomboletta spray tirata di traverso all'asfalto, 40 km più avanti, ma con uno spirito competitivo che a volte superava le gare vere. Un giorno Alessio mi dice di unirmi a loro e fare quel giro un po' pazzo, appunto. Parto allora per questa impresa. Mi presento alla piazza del paese allora stabilita e aspetto guardando qualche altro ciclista stravaccato al bar. «Non si va?» gli chiedo. «Sì, tra poco», mi dice. «Hai paura?» mi fa lui. «Sono un po' teso», gli rispondo. D'un tratto suona la campana del municipio. Da tutte le parti saltano fuori ciclisti. Dal bar, da dietro l'angolo, persino dalla chiesa. Si parte e per i primi 5 chilometri ci si scaldano le gambe. Si chiacchiera e si ride. Io, teso come una fionda, guardo solo i miei battiti cardiaci sul display e la ruota di quello davanti. «Se non ce la fai, tranquillo, ti aspetto alla riga», mi dice lui. Lo guardo e sorrido con un po' di invidia. Cominciano a spingere a manetta e il gruppo si corre davvero forte. Pedalo al meglio e guardo solo di non finire addosso a quelli davanti. E poi, di colpo, come se fossi illuminato, sento che non sto arrancando. Mi sento bene e comincio a voler andare un po' più vicino ai primi. Mi sposto, accelero un pochino. Sono tra i primi 10 e non so come, ma sto bene. Il primo è lì, ad un passo da me. Lo fisso mentre dà la direzione, mentre soffre e taglia l'aria per tutti. Il primo in testa al gruppo ha l'onore di guidare gli altri. E proprio perché è il posto più duro di tutti, io lo ambivo. Il gruppone intanto è compatto, segno che davanti non si forza molto. Così, in un attimo di follia, mi tolgo di nuovo dalla scia e passo davanti, in testa a tutti. Sì, sono in testa a tutti. Sapevo di non avere ancora molto nelle gambe, ma mancava poco e io ero ancora lì a lottare. E non vedevo più nulla. Non sentivo più nulla, non guardavo né il cardio né la velocità. Niente di niente. Pedalo e basta. Solo io e la mia fatica. Avevo fatto quel tratto di strada desolata nel cuore del delta del Po centinaia di volte, ma in quel momento non sapevo bene dove fossi. Sentivo solo la fatica e il vento in faccia. Per un attimo, nel pieno dell'impegno, quasi mi dimenticai che ero in testa ad un gruppo scatenato di 60 ciclisti pazzi. Poi mi girai e lì il mio cuore, che era già un martello pneumatico, mancò di colpo. Dietro di me non c'era un bel gruppone compatto, ma una lunghissima fila indiana, di cui non vidi nemmeno la fine. Mi rivoltai per vederla e notai che la fila era spezzata verso la fine. Feci un sorriso e guardai Alessio, qualche posizione dietro. Io non pensavo assolutamente di essere in grado di tirare tutto il gruppo e soprattutto per così tanto tempo. Ero convinto di cedere dopo i primi chilometri, mai mi sarei aspettato di avere le gambe e il cuore per arrivare fino al traguardo, mai al mondo. Chiesi il cambio in testa, mi rimisi in scia ed in quel momento mi resi conto che non volevo vincere. No, non volevo nemmeno provarci. Sì, perché mentre ero in testa, mentre dettavo l'andatura, sentivo una gioia grandissima. Era la fatica stessa a farmi sentire così bene, così fisicamente giovane e in forze. Ero felice e dando tutto quello che avevo, riuscivo a sentire la voglia di vivere. Forse, chissà, se avessi provato a vincere, non sarei stato così felice. Follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Set your intentions when this day is done. E la foto che ci manda Paolo è una foto in cui ovviamente è in bicicletta ed è ad un passo, ad un valico in cui evidentemente è arrivato da solo con la sua bicicletta. Il passo è, c'è davanti Ascolta, quindi passo Fedaia forse, adesso glielo chiedo direttamente. Lui ha una camicetta rossa, un casco in testa e guarda sorridente nell'obiettivo. Pronto Paolo? Eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Scusami, è che faccio fatica a leggere la scritta sulla foto. Passo? Passo Fedaia. Fedaia, ok, allora dicevo Veneto. Giusto. Che è su quale monte? È un passo tra il Veneto e il Trentino e arriva nella città di Canazei. Ok, a quanti metri? Sono 2050 metri di altezza il passo. Paolo, ma quindi tu 800 metri. Ma quindi tu, insomma, non è che scherzi andare in bicicletta, ci vai? Sono, diciamo, un amatore che si impegna molto. Tra il lavoro e tutto il resto ci metto molto impegno, sì. Ok, però anche gli altri 60 ciclisti folli sono semplicemente amatori, giusto? Non proprio tutti, sono amatori, però certi fanno proprio solo quello. Fanno proprio, si allenano tutti i giorni, escono e poi fanno gare anche. Ma nel senso che sono in pensione? No. Ah, nel senso che sono degli atleti? Sono proprio degli atleti, hanno una ventina d'anni e 20-25 anni, si allenano tutti i giorni e vivono di quello. Senti, questa cosa della corsa pazza non è, diciamo, non è illegale, nel senso che non è che qualcuno possa darvi una multa, giusto? Non è una gara in macchina, però, però è al limite, giusto? È molto al limite, perché ovviamente immaginati 60 ciclisti su una strada, se la prendono tutta, le macchine devono accostare, le macchine dietro suonano, insultano. E scusami, questi 40 chilometri su quale tratto di strada sono? O non me lo puoi dire, no, perché è una cosa di un po' tipo Fight Club che ve la tenete, no, per voi? Assolutamente, è su praticamente tutto il percorso dell'argine del fiume Po, uh-huh. Quando si divide, diventa il delta, sì, dove comincia il parco, tutta la strada sulla la strada arginale, sì, è poco trafficata, ma è generalmente presa dai ciclisti, per cui non è... Però non è una ciclabile ufficiale, cioè ci passano automobili. Ci passano automobili, sì, non è ufficialmente una ciclabile. Quando diventa solo la domenica, quando viene chiuso il traffico. Ah, ok. Gli altri giorni no. A quando risale la storia, il racconto che ci hai mandato? Quando l'hai fatta questa corsa? 2 anni fa. L'hai più fatta da allora? sì. Un paio di volte. E com'è andata? Hai sempre avuto... Tra l'altro ho apprezzato moltissimo il tuo finale quando dice che preferisci goderti la gara. La conosco bene quella roba lì, si chiama paura di vincere, nel senso che a un certo punto uno dice se ci provo e non ce la faccio, figurati. Col tennis è presente tutti i giorni, perché dici se questo vince perdo io, e vince sempre lui. Diciamo, l'hai riprovata quella roba oppure ci hai provato a vincere una gara? No, una volta sola, sono sempre rimasto dove comincia la volata, perché tutto il gruppo si muove insieme, sì. Poi verso sulla fine parto e si mettono davanti chi ne ha di più e prova a vincere. Okay. Io mi sono sempre tenuto nelle prime posizioni, mm-hmm, però non ho mai provato a scattare come tutti gli altri, anche perché non lo so. Non ho mai voluto provarci. Ecco. La tua fidanzata la sa questa cosa della corsa pazza o ti ha ritirato la bicicletta? La sa, la sa, però ogni volta che vado mi dice sempre 4-5 volte di stare attento, di non andare. Ok, oltre alla tua foto che ci hai mandato, che è sul sito di Radio 24, ce n'hai mandata un'altra che adesso postiamo sul profilo Facebook, che è proprio, credo, da Google Street View, la riga, esatto, sull'asfalto del traguardo dove arrivate. Io ti ringrazio, Paolo, ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo, complimenti per la trasmissione. Grazie, ciao Paolo, ciao ciao ciao, ciao. La prima volta erano delle gare in Vespa intorno alla rampa d'accesso della circonvallazione non ancora aperta al traffico. Sì, perché vicino a Romentino, vicino al mio paese, stavano costruendo questa strada che avrebbe tagliato fuori tutti i paesi, da Trecate fino a Malpensa, passando proprio per il mio di paese, per Romentino. Noi eravamo dei 14enni senza troppe pretese né desideri di strafare o di esagerare. Ecco perché avevamo un po' bisogno di una gara. Eravamo io, Davide Martelli, Massimiliano e Maurizio Martelli, c'erano un sacco di Martelli al mio paese e ci sono tuttora, poi c'erano Gabriele e il Nasello. Il K2 era la gelateria del paese vicino al benzinaio e vicino proprio al nuovo accesso alla circonvallazione. Il percorso era molto semplice. Partenza da dove la strada sterrata, quella non ancora battuta, diventava asfaltata, giro intorno alla grande rotonda che avrebbe dato accesso alla futura circonvallazione e ritorno, con traguardo sulla stessa linea di demarcazione tra la terra e l'asfalto. Certo, non era il Nürburgring, ma ce la facevamo andare bene. Il più veloce era quasi sempre il Nasello, nonostante la stazza, rispetto alla nostra molto più ampia, e il mezzo, che era sempre lo stesso. La Vespa 50 PX verde con una strisciolina rossa lungo la fiancata. Io non ero particolarmente veloce, però avevo capito come impostare quella lunga curva a gomito dove praticamente ci si giocava tutta la gara. Avevo sentito un'intervista in televisione a René Arnoux, non so se lo ricordate. Arnoux era stato per un paio d'anni pilota della Ferrari. Ricordo che durante questa intervista lui, ridendo, diceva che il segreto per fare bene una curva è tenere le ruote dritte il più possibile, sterzando solo quando serve. Io ovviamente pensai che questa regola potesse andare bene anche per le due ruote della Vespa e quindi quella sera ci provai. Feci prima, seconda e terza in pochi secondi e quando misi la quarta ero ormai praticamente già alla rotonda. Allargai dolcemente e poi la affrontai come se dovessi sfiorare il bordo nascosto della curva con le ruote della Vespa. In tutto quello non avevo ancora decelerato e la Vespa andava a circa 45 all'ora, che sembra ridicolo ma non lo è considerato le ruotine che aveva. Quando uscii dalla curva mi accorsi che però non bastava e per finirla avrei dovuto sterzare ancora, cosa che invece Arnoux aveva espressamente detto di non fare. Quindi io non lo feci. Allargai la traiettoria al punto da passare a tanto così dal guardrail di destra, ma soprattutto uscii sull'asfalto, dall'asfalto, e finì con la ruota sulla terra. Non caddi, nemmeno vinsi, però ricordo la sensazione orribile della ruota davanti che scivola sulla terra fino a che non incontra di nuovo l'asfalto e si raddrizza, grazie anche al mio sforzo effettuato con non so quale parte del corpo. Tornai a casa quella sera con un'energia che non conoscevo, e non era la velocità, tantomeno lo scampato pericolo. Era, credo, quell'ebbrezza che dà l'agonismo quando ti metti insieme a pochi amici o a 60 ciclisti e decidi che chi arriva primo ha vinto, anche se non si vince niente e anche se lo sapete solo voi e i vostri compagni di gara. E alla fine, dalla storia di Paolo, ho capito che 1. Le competizioni sportive non hanno in realtà alcun senso, se non per chi le fa. 2. La bicicletta dilettantistica è uno sport decisamente per over 30. 3. Le mogli o fidanzate hanno ragione a non fidarsi degli hobby dei compagni. 4. Appena torno a Romentino faccio un giro sulla rotonda della circonvalla. 5. Non ci sono più le Vespe PX di una volta. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Not let it go. From a mess to the masses. 16:29 minuti, sempre in diretta, stiamo per chiudere anche questa puntata di Voi Siete Qui al 349-238-6666, due messaggi sostanzialmente. Quelli che hanno fatto corse pazze, roba tipo scendere per un prato molto ripido con una specie di slitta di legno levigato, da Nicola, e soprattutto un altro tipo di messaggi, gente che detesta i ciclisti e, come dice non so chi, fosse per me i ciclisti li arroterei. E che con questo messaggio di pace, che ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Fabio Cantadori, Mauro Pescia dall'altra parte del vetro. Grazie soprattutto a Paolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Franco e vivo in un paese vicino a Parma. La storia di domani è la mia e parla del formaggio del federale. Questa è la mia storia e io sono qui.